partiranno, credi di trionfar. Lasciami nell'inganno, lasciami lusingar. Che più non amo, che più non amo. Se d'un amor tiranno, credi di trionfar. Lasciami nell'inganno, lasciami lusingar, lasciami nell'inganno, lasciami lusingar, che più non amo. Lasciami nell'inganno, lasciami lusingar. Oh,